Povero calcio italiano, che vergogna. Un calcio lasciato nudo, anzi in pantaloncini, da un manipolo di teppisti che si improvvisano giudici e che obbligano in diretta TV i giocatori del Genoa alla gogna. E tutto come se fosse normale, con un presidente Preziosi che acconsente, licenzia l'allenatore Malesani, capirai, e la polizia solo 10 agenti, che rimane inerme. Strano perché a Genova, quando vuole, la polizia ha la mano molto pesante. Pare sia stata sventata la consegna dei pantaloncini. E non è una battuta, ci mancava solo questo. Già nel mondo, negli ultimi tempi, tra spread e partite vendute non godiamo di buona fama. Con questo strip, senza vergogna, avremmo toccato il fondo. Questa purtroppo è l'anima più profonda del calcio italiano. Una settimana dopo la morte di Pier Mario Morosini, il peggio riemerge dagli abissi. Tanti bei discorsi finiti in fumogeni. Come al solito, anche la morte di un ragazzo per bene è stata solo l'occasione per pulirsi la coscienza, ma per togliere il marcio non basta una mano di vernice. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.